capirai. La vita corre e non la fermi mai. È già lontano il tempo, domani un altro giorno. Accelera il tuo passo se non lo perderai. Segui l'attimo che non ricapita, ma sì che sputalo. Quante volte sono fermo e aspetto chissà. Passa il treno, domani è un altro giorno. Accelera il tuo passo.